partirei dallo spettacolo. Come lo racconteresti in breve? Per me è un inno all'amore. È un inno all'amore innanzitutto per mio nonno, perché è uno spettacolo che nasce dalla riflessione che ho fatto nei mesi successivi alla sua morte. È una persona che mi ha insegnato tantissimo, che io stimo infinitamente per ciò che mi ha trasmesso, perché ho avuto la fortuna di vivere in una famiglia allargata dove lui era un po' il perno di tutta la famiglia. Persona che viveva rispettando dei valori antichi sui colli torinesi, che mi ha dato una grande spinta per vivere nel mondo odierno, no? In cui va tutto velocissimo. Ogni tanto pensare al nonno mi aiuta a frenare. E quindi lo spettacolo nasce così. In più, questo unito alla mia etica di vita, al modo in cui cerco di barcamenarmi in questo mondo così difficile. E a un certo punto, dopo mesi, dopo la morte del nonno, mi dicevo: ma come faccio a far continuare a vivere la sua vita, la sua memoria, la sua positività? Non volevo cadere nell'autocelebrazione familiare. E ad un tratto una notte ho avuto un'illuminazione, me lo ricordo, e ho detto: beh, ma posso unire la storia del nonno con la tematica dell'impatto ambientale, perché chi era più a basso consumo di nonno Michele, mi sono detto. E così è partita tutta la macchina. Senti, ci parli anche un po' di Mulino ad Arte che lo produce? Mulino ad Arte è una compagnia teatrale tutta under 35, che ha sede a Torino, per la precisione in provincia, a Cumiana, anche se operiamo su tutto il territorio della provincia di Torino per quanto riguarda l'organizzazione e le varie sedi operative. Mulino d'Arte nasce nel 2009, anche se poi diciamo, ha avuto un po' uno stop perché entrambi abbiamo continuato la formazione, noi siamo diplomati alla Scuola di Teatro di Bologna Alessandra Galante Garrone. Alla fine di questa scuola ci siamo guardati in faccia, soprattutto io e Jacopo Trebbi, che è uno degli altri attori diplomati con me, e abbiamo deciso di investire in questo progetto, anche perché il direttore nostro, Vittorio Franceschi, ci disse che in questo momento storico chi ha qualcosa di interessante da dire è il momento giusto per unire le forze e per dirlo, perché come diceva lui, appunto, se qualcuno ha qualcosa di interessante da dire, è ancora un mondo che ti sa ascoltare, dove riesci a ritagliarti uno spazio. E così è stato, in effetti, perché poi Mulino ad Arte in pochi anni è diventata una compagnia che attualmente gestisce 4 rassegne teatrali, che gira tutta Italia, distribuendo oltre 60-70 repliche l'anno su tutto il territorio. E poi siamo anche reduci da un bel successo per quanto riguarda Mi abbatte e sono felice, perché ha vinto 3 premi nell'ultimo anno, e adesso a dicembre abbiamo avuto un bel riconoscimento dalla Fondazione Cariplo, abbiamo vinto un bando importante, il Funder 35, che è un po' il fiore all'occhiello delle fondazioni bancarie per quanto riguarda il sostegno alle giovani imprese culturali under 35. Sì. Senti, il tono, tornando allo spettacolo, il tono generale e gli argomenti toccati. Il tono generale, allora, direi che il tono generale è quello di un racconto in cui io ho cercato di recuperare lo spirito e l'animo di nonno Michele, che era una persona che catalizzava veramente tutta l'attenzione del pubblico quando raccontava una cosa, anche se drammatica. Infatti nonno Michele veniva spesso, tra virgolette, utilizzato da intervistatori vari, quali studenti universitari, quali televisioni, per raccontare le vicende vissute durante la sua giovinezza, in particolar modo durante la Seconda Guerra Mondiale, perché le raccontava con aneddoti sempre scherzosi, comici, ironici, dissacranti. Io ho cercato un po' di recuperare questo mood, questa quest'anima di Nonno Michele, infatti nello spettacolo io indosso i suoi vestiti, ho i vestiti recuperati del suo guardaroba, il suo fantastico cappellino arancione che aveva in dotazione del negozio dove prendeva gli attrezzi da giardino. E mentre invece le tematiche trattate, oltre a quella, appunto come già dicevo in precedenza, degli aneddoti di vita con lui, della mia giovinezza, i temi trattati sono quelli legati alla decrescita felice di Maurizio Pallante, all'impatto ambientale che ognuno di noi ha nei confronti del pianeta, all'ecosostenibilità, alla green economy. E infatti ho avuto la fortuna in questi anni di rappresentare lo spettacolo spesso in contesti dove si creano delle sinergie tra il mio spettacolo e eventi quali appunto feste di Legambiente oppure del Movimento per la Decrescita Felice. Ho fatto questo spettacolo addirittura in vigne, in frutteti. È un'esperienza molto molto bella. Ecco, proprio a questo proposito, che percorso sta facendo lo spettacolo? Lo spettacolo, come dicevo, uno spettacolo veramente multitasking per quanto riguarda le possibilità di rappresentazione. Lo spettacolo è stato rappresentato in molte regioni d'Italia e la cosa che mi ha sorpreso è che la storia di Nonno Michele ho scoperto essere piuttosto universale. In ogni piazza mi capita che le persone si riconoscano e spesso si riconoscano in quel Nonno Michele che ognuno di noi ha avuto in qualche modo. Io penso che ognuno di noi abbia avuto una figura cardine nel proprio percorso di crescita e anche chi non ce l'ha avuta sono felice perché la sera in cui ha visto lo spettacolo mi ha detto grazie perché io ho conosciuto grazie al tuo spettacolo la forza e la positività di Nonno Michele. Quindi questa è una cosa trasversale a tutte le regioni, poi ovviamente di regione in regione cambiano cambia la percezione del pubblico rispetto a determinate ironie o battute, visto che ho anche inserito qualche regionalismo, anche se in un'ora di spettacolo ci saranno quattro parole in dialetto piemontese, quindi non è quello, però ci sono tante cose legate a un'ironia piemontese legata a Nonno Michele. Lo spettacolo, come dicevo, è stato rappresentato sia in teatro, in teatro classico, in un contesto di stagione teatrale normale, e invece anche nei contesti più disparati, anche sfruttando, a mio avviso, uno degli aspetti più positivi e più accattivanti della messa in scena, ovvero che è possibile realizzarlo in qualunque spazio, a prescindere dalla possibilità di collegarsi a un impianto audio-luci, perché appunto io pedalando alimento tutto ciò che serve per la messa in scena, e quindi, come ti dicevo, mi è successo di farlo in una vigna, mi è successo di farlo in un giardino, mi è successo di farlo in una vecchia chiesa sconsacrata medievale in cui non c'era elettricità, e quindi sicuramente si presta molto a contesti non usuali, ecco. Bene, allora Daniele, un abbraccio, un in bocca al lupo e ci si vede a teatro. Un abbraccio a voi, io vi ringrazio. Ricordo che lo spettacolo sarà dall'11 al 14 gennaio al Teatro Belli di Roma, a Trastevere. Benissimo. Grazie, un abbraccio. Ciao.